Buonasera a tutti, da parte della Biblioteca Claudio Augusto è un piacere di salutarvi, vi ringrazio per essere convenuti. Ho il piacere nuovamente come biblioteca di collaborare con la società Dante Alighieri, ovviamente comitato di Bolzano, e per questa nuova attività, questa nuova manifestazione in tre serate. 100 anni dalla nascita di Pierpaolo Pasolini ci hanno portato a decidere di fare appunto queste tre serate. La prima è quella di stasera, poi ci sarà appunto, come vedete qua dietro, le due proiezioni del 7 e dell'11, no scusate, del 10 di ottobre. Stasera però è una proiezione, perché sappiamo che Pierpaolo Pasolini è sì regista, però lo possiamo definire proprio un intellettuale a tutto tondo, perché è stato poeta, scrittore, drammaturgo, sceneggiatore, insomma addirittura attore, per cui è un personaggio veramente che a tutto tondo. E quindi questa sera parleremo di lui con chi ha avuto la fortuna di conoscerlo, però sappiamo che su Pasolini ci sono anche tanti giudizi di diverso tipo, che possono essere anche critici, però siamo qui proprio per questo, insomma, per parlare di questo. La collaborazione ulteriore è con gli Amici dell'Arte, come potete vedere ci sono questi bellissimi quadri, ne parlerà meglio la signora De Rosa, che, a cui lascio la parola per presentare appunto ad onorati. Buona serata a tutti e vi aspetto in biblioteca, mi raccomando. Giù in fondo trovate i libri che abbiamo preparato, una piccola biografia, sia appunto una lista, che poi appunto i libri esposti, li trovate giù da noi, sono da prendere in prestito se vi interessano. Ricordate che la lettura è sempre importante, qui ovviamente abbiamo questa possibilità di incontrare questa persona che ha conosciuto Pasolini, che ha un'esperienza grandissima e che quindi sicuramente ci ispirerà, e poi appunto magari approfondire è sempre importante da soli, con i propri mezzi e appunto grazie anche al servizio delle biblioteche. Vi aspettiamo giù in biblioteca, buonasera. Ecco, buonasera, ringrazio la dottoressa Marcon per l'ospitalità e per questa collaborazione che insieme a tante altre con la biblioteca Claudio Augusta abbiamo portato avanti, grazie anche all'intercessione di Paola Mazzini, la professoressa che è del nostro direttivo della Dante Alighieri, che conoscete da tanti anni. E abbiamo qui anche una mostra degli Amici dell'Arte, vedete un campionario di 5 quadri su Pasolini, saluto la presidente che vedo lì, bellissime queste opere, e la mostra sarà a dicembre alla Galleria, vero? In Piazza Domenicani, proprio su Pasolini. Quindi abbiamo tre serate dedicate a questo personaggio in occasione del centenario della sua nascita, personaggio, un intellettuale, un poeta, un regista e tutto il resto che ha già detto la dottoressa Marcon, molto famoso, anche un po' scomodo diciamo per certe questioni, però noi lo ricordiamo, ecco, anche se è stato condannato in alcuni ambienti istituzionali, lo vogliamo ricordare per tutte le sue produzioni culturali, per come ha descritto la società dell'epoca, il popolo, per le sue vicende umane. Poi era un personaggio che amava molto Dante e questo ce lo può raccontare il nostro ospite, il professor Onorati, che l'ha conosciuto di persona. E il professor Onorati viene da Roma, con un treno un po' in ritardo, ma insomma succede spesso. Ecco, è un poeta, un dantista, riconosciuto dalla società Dante Alighieri Nazionale, che gli ha conferito anche il diploma di benemerenza con la medaglia d'oro nel 2009, e ha lavorato con tanti giornali come giornalista, con l'Avvenire, l'Osservatorio Romano, il Popolo, il Giornale d'Italia, forse non dimentico qualcuno, ha lavorato anche con la RAI, al programma Dipartimento Scuola Educazione per tanti anni, ha tenuto e tiene conferenze in Italia e all'estero sulla storia della lingua e della letteratura italiana, ecco. Ha pubblicato tantissimo tra romanzi e narrativa, non li elenco neanche perché sono tantissimi veramente la sua bibliografia. Per quanto riguarda appunto la società Dante Alighieri, cura le letture a Roma, cura le letture di Dante e anche in centri appunto italiani, ma anche all'estero. Voi sapete che abbiamo 100 comitati Dante Alighieri in Italia e 400 sparsi per il mondo. È stato tradotto in più di 20 lingue nei paesi di tutto il mondo. Io ho visto opere scritte in russo e tradotte in italiano anche tra la sua letteratura. Ecco. Allora, benvenuto. E passiamo il microfono. Grazie, professoressa. Grazie a tutti. Grazie al mio amico Giulio Klamer. Se non era per lui questi giorni non mi muovevo, perché è un periodo di stanchezza terribile, data anche la mia età e il caldo che non riesco a sopportarlo. Però questa è una città affascinante. E poi questa sera ho avuto il piacere che mi ha accompagnato la mia nipotina, Teresa, la figlia di mia figlia, per cui mi sento in compagnia, ecco. Lei diceva prima una cosa importante di Pasolini, diceva appunto che è stato condannato più volte, ma la cosa che oggi stupisce è che le opere per le quali ha subito i processi possono leggerle anche le educande, quelle che stanno per prendere il velo, in confronto a tante scritture come 50 sfumature di grigio, io volevo i pantaloni, eccetera, cose vergognose che vendono milioni di copie e non hanno fondamento culturale. Ecco, quindi bisogna un po' rivederla la posizione di Pasolini, perché egli ha dato scandalo, e questo non possiamo negarlo, per il fatto della sua omosessualità esibita, quasi un esibizionismo. Lui che ne soffriva particolarmente, a un certo momento ha avuto una lotta interiore e ha detto va bene, salviamo capre cavoli e andiamo avanti, insomma. Dall'altra, il suo lato direi quasi mistico, perché era un uomo religioso, non perché andasse in chiesa a fare la comunione, questo non c'entra niente, ma era un uomo religioso, profondamente religioso. Tant'è vero che il suo capolavoro è senz'altro il Vangelo secondo Matteo, ma la figura di Cristo, e mi dispiace che nel centenario della nascita non si sia approfondita questa cosa in Italia e all'estero, non so all'estero, ma in Italia no, la figura di Cristo è stata centrale non solo nell'opera di Pasolini ma nel suo pensiero. Io ricordo che una volta gli chiesi, dico, senti per Paolo, ma tu credi che Pasolini, che Gesù era Dio, figlio di Dio, parte della vita, mi dice no, guarda, no, non credo a queste cose, però la sua grandezza morale, la coerenza, il genio assoluto, anche i Damagli dice Gesù è un genio assoluto, è più grande degli uomini, poi chi crede che sia Dio sono affari suoi. Lui mi disse, io non credo che sia Dio, ma per questo però egli è divino, è un uomo divino. Se io nel mio libro ho scelto di parlare proprio dell'importanza della figura di Cristo nel pensiero di Pasolini e di metterlo in relazione al Cristo di Oscar Wilde, essendo entrambi omosessuali e uomini di scandalo, perché Oscar Wilde per la sua omosessualità è andato in galera. Ce l'ha mandato quel delinquente del suo amante parassita Alfred Douglas, ma in galera ha scritto un'opera che è una delle più grandi opere, io non dico dell'idioma inglese, ma dico dell'umanità, ed è il De Profundis, nel quale De Profundis parla di Gesù in una maniera commovente, commossa, potente, e io direi in una maniera talmente sanguigna che avvicinano a Cristo di più questi due omosessuali scandalistici che taluni sermoni di teologi che ti lasciano freddo, anzi che ti raffreddano se già non ci sei. Ecco, non mi prendete per uno che beffardo per la Chiesa, perché già Santa Madre Chiesa non si tocca. Però ho messo queste due figure distanti nel tempo ma molto simili per la vita che hanno condotto e per la centralità che nella loro vita ha avuto la visione di Cristo. Una visione diversa, perché per Oscar Wilde Cristo è un poeta, è un uomo del romanticismo, è uno che ha anticipato il romanticismo, è un personaggio che incarna un'idea e commuove. Per Pasolini è un rivoluzionario assoluto, è un rivoluzionario assoluto. Il suo film Il Vangelo secondo Matteo, altro che il fumettone di Zeffirelli e tutti gli altri fumettoni dove fanno vedere Gesù con gli occhi cerulei, biondo, delicatissimo, è un medio orientale con gli occhi celesti e biondo, sono cose che fanno ridere i polli queste, ecco, diciamo. Ma Pasolini è andato al fondo, ha sfrontato tutte queste cose da fumetti che si leggono sia nei film o cose freddissime che si leggono nelle vite di Gesù come quella della Padre Ricciotti. Lì c'è un poeta altissimo che in certo quel modo in alcuni punti si identifica con Cristo. Guardate, si è parlato poco anche del profetismo di Pasolini, poi parleremo anche del dantismo, dopo parleremo anche di quello. Ma Pasolini è stato profeta di se stesso. Voglio dirvi tre cose. Allora, quando uscì La meglio gioventù in edizione rivista e corretta, io lo incontrai, e questo è stato un paio di mesi prima della morte, e gli disse: senti, ho ascoltato la trasmissione radiofonica, l'intervista che ti ha fatto Walter Mauro. Dico: ma cosa vuoi dire con questo libro? E lui mi rispose: è un sopravvissuto che parla ad altri sopravvissuti, anzi è un morto che parla ai vivi. 2 mesi dopo è successo quello che è successo. Seconda cosa, Uccellaccio uccellino. Altro capolavoro altissimo, opera di poesia straordinaria. Lì hanno tutti parlato di Cesaie, la fine dell'ideologia, eccetera, ma il corvo è Pasolini. La voce del corvo, che l'ha fatta, adesso mi sfugge il nome, uno scrittore che era amico suo, era la voce quasi uguale a quella di Pasolini, così dolce, quasi femminile, no? A un certo momento questo rompiscatole che fa? Il corvo, questo rompiscatole, viene ucciso. Viene ucciso. Terza cosa. La Madonna, nel Vangelo secondo Matteo, la impersonifica la madre Susanna, una donna dolcissima, una donna meravigliosa. Mi preparava sempre il caffè quando andavo a casa sua. A via Giacinto Carini. Lei non voleva, diceva: ma lasciami stare, e lui le diceva: dice, guarda che per gli italiani, per ogni italiano, la mamma è la Madonna, devi farla. E lei ha fatto la Madonna che ha visto morire in croce il figlio. Dopo poco tempo, diciamo 6 anni, 7, è stata la madre che ha visto morire il figlio. Certo, non in croce, in una situazione ambigua sulla quale io non voglio aggiungere niente, perché chi la dice cotta, chi la dice cruda, fatto sta che è morto. E anche qui c'è una specie di profetismo. Oh. Per agganciarmi a quanto aveva detto lei, professoressa, cioè questo dantismo di Pasolini, che forse è stato l'autore che maggiormente ha amato Dante nel Novecento, quando io lo intervistai la prima volta, era il 1961, io avevo 22 anni, cioè 83 anni finiti, compiuti solo, 80, quasi 84, quindi insomma, se mi ripeto un po' la mia vecchiaia la scuserete. Ecco. Allora, quando lo intervistai la prima volta, gli chiesi fra le altre cose, poi l'intervista sta in questo libro, la prima intervista gliel'ho fatta tante, ma ho scelto la prima proprio perché era la prima, no? Di apertura, la più difficile. E dissi: cosa sta scrivendo, professore? Lui mi rispose: sto scrivendo un'opera intitolata La Mortaccia, sulla falsariga della Divina Commedia, un'opera che rimase incompiuta, no? La Divina Mimesis, poi è rimasta incompiuta. E allora parlando gli dissi, ma questa sua idea di camminare vicino a Dante E lui mi interruppe e mi disse: Dante è inimitabile. Dice, però se uno legge Dante e non gli entra nel sangue e nelle vene, ha perso tempo. Poco dopo esce un'opera, poco dopo perché gli anni che ha vissuto sono pochi, poco dopo esce un'opera intitolata Trasumanare, organizzare, che è preso da un verso di Dante, dal primo canto del Paradiso. Trasumanare significava per verba non si poria. E lui porta l'esempio di Glauco, il pescatore della Beozia, il quale vedeva che i pesci da lui pescati, tramortiti, se mangiavano una certa erba si rinvigorivano e rientravano nell'acqua. Allora un giorno la mangiò anche lui e venne assunto come una divinità marina, trasumanare, significare per verba non si borina. Quindi Dante è presente in lui in una maniera totale. Difatti, se voi leggete le poesie di Pasolini, sono tutte in terza rima, quasi tutte in terza rima, cioè la linea incatenata di Dante, no? A, B, A, B, C, B, C, B, D, eccetera, eccetera. Non è incatenata. Lui lo amava talmente che aveva imitato anche nel verso, nella tecnica del verso, il difficilissimo concatenarsi della metrica dantesca. Naturalmente tutti voi sapete meglio di me che l'endecasillabo che noi usiamo e che è stato usato dopo Dante l'ha inventato Dante, perché prima l'endecasillabo aveva 11 sillabe, ma non aveva accenti, pensate addirittura sulla quinta sillaba, insomma, che è come il diavolo in musica, l'accordo fa sì che è dissonante. Dante ha dato le regole dell'endecasillabo. L'accento centrale è sulla sesta e sulla decima, oppure sulla quarta, sulla settima e sulla decima. Nel mezzo del cammin, sesta, di nostra vita, sentito come cambia subito, mi ritrovai, sta su quattro, per una serva sta su otto. Allora il primo è l'endecasillabo A maggiore, il secondo è l'endecasillabo A minore. Ora non parliamo degli MC, cioè non voglio fare il professore, però Dante ha inventato anche la tecnica dell'endecasillabo. E Pasolini mi diceva che, poi naturalmente l'avete letto anche voi nel De Volgari Eloquentia, che c'è una parola presa da Dante che adesso io non ricordo, che è di 11 sillabe, e Dante diceva su questo si basa la versificazione italiana, cioè la lingua italiana è endecasillabica, endecasillabo piano. Torniamo a Pasolini e voglio raccontarvi appunto della sua sensibilità, che era imprevedibile in un uomo che è diventato famoso, celebre per la sua persona scandalistica. Lui mi disse un giorno, dice: guarda Aldo, che certe volte io uscendo di casa evitavo di passare davanti alle edicole per non vedere il nome mio bistrattato, non lo cercavo di non guardare. Dice: io ho sofferto in questo. Questa persona così scandalistica a un certo momento tira fuori il più bel film sulla figura di Gesù, e tira fuori anche in Uccellacci Uccellini quell'altra figura meravigliosa del frate che incarna in certo qual modo San Francesco, e nella ricolta che la cecità italiana ha bloccato e fatto ritirare dalle scene per un po' di tempo, anche lì c'è il problema di un Cristo soffrente, di un uomo che è uno dei tre ladroni che mangia troppa ricotta e muore veramente sulla croce. Cioè, ma questo è blasfemo, no? Qui c'è un trasferimento, una traslitterazione che bisogna vedere. Quest'uomo Pasolini è un uomo che ha sofferto terribilmente nella vita per la sua diversità, per la sua omosessualità. A un certo punto la punta sbatte in faccia al mondo e tutti gli omosessuali gli sono grati, perché la sdoganata, come si dice, la sdoganata, Beh, in certo qual modo Scarvaglia aveva fatto la stessa cosa. Vi racconto dei particolari che riguardano la mia lunga, per quanto sempre breve, amicizia con Pier Paolo. Lui era anche un animo... Sto parlando troppo, quanto... Sei stanchi? Allora, lui era un animo anche, un animo georgico. Si è sempre parlato di un Pasolini che vive l'illusione di un tempo arcaico georgico. E i critici naturalmente hanno detto, ma lui non ha preso mai una vanga in mano, che parla di contadini. Io sono figlio di contadini e ho vangato, ho zappato, ho coltivato, ho ancora un pezzo di terra che porto avanti con grande passione. Appena metto i piedi sull'erba, ecco, io vedo il mondo sotto un'altra luce. Ecco. Pasolini era un animo georgico, anche se non aveva mai preso la zappa in mano, perché in fondo il padre era un colonnello. Lui, quando è diventato famoso, prestissimo, si è fatto una macchina scintillante. Io una volta gli dissi, ma tu sei un borghese? E lui mi disse, sì, sono un borghese, purtroppo è vero. Cosa che Moravia non poteva sentirsi dire. Moravia non poteva sentirsi dire questa parola. Una sera eravamo a cena da Francesco May, un grande giornalista, studioso di Oscar Wilde, e c'era Dario Bellezza, Moravia, altri due o tre giornalisti, e Dario Bellezza scherzava dicendo, tu parli tanto male della borghesia, ma tu sei un borghese. A un certo momento Moravia prese la forchetta e disse, basta, non lo ripetere più, io non sono un borghese. Invece Pasolini lo ammetteva, diceva, sì, anch'io sono un borghese, sono un uomo ricco. Però nel suo animo era teneramente contadino. Vi racconto un fatto che riguarda appunto i miei rapporti con lui. Allora un giorno gli raccontai che mio padre aveva messo in vendita l'orto su Adalbano nei Castelli Romani, che però era stato sventrato dalla strada Albano-Pavona, per cui questa terra che aveva, era un ettaro, 10.000 metri, era stata ridotta a 3-4.000 metri, e c'era questa strada in mezzo. E lui disse, voglio vederla. Allora, venne a casa mia, io abitavo nell'Albano Vecchia, nell'Albano Antica, e stavo lavorando e sentivo... Ho sentito la voce sua che diceva, ci abita qui un orati. Allora i ragazzini, ma se non ti cerca uno, io scesi, ci abbracciamo, era elegantissimo, aveva una macchina metallizzata. E mi dice, senti Aldo, dobbiamo andare giù nella piazza perché dobbiamo aspettare Alberto che viene da Velletri, Alberto Moravia che viene da Velletri. Beh, dico, sì, tanto poi da lì scendiamo giù. Venne Moravia, altissimo. Però siccome era zoppo, quando si mise sull'altra gamba scese di una ventina di centimetri, perché era zoppo di una gamba. Aveva un macchinone immenso, però a quei tempi c'era il posto. Oggi per trovare un posto si fa prima andare in paradiso a piedi che trovare un buco per parcheggiare la macchina. E allora andavo con la macchina di Pasolini, eccetera. A un certo punto, penso che fosse autunno, sì, c'era un sole rosso sul mare enorme. Allora Moravia disse, questo è il sole della fine del mondo, Moravia. E ci apparve subito all'entrata, avevamo tante piante, c'era un albicocco immenso, avevamo un albicocco immenso che perdeva le foglie a dicembre e gennaio, faceva delle albicocche grandi come le pesche. E Pasolini rimase incantato a guardare e disse, che albero è? Lui non lo sapeva, amava i contadini, amava la terra, parlava di agricoltori, ma non sapeva distinguere un pero da un melo, insomma, ecco, diciamo, ecco. Disse, questo è un albicocco, cioè, che meraviglia, e non la finiva più di guardare. Vabbè, ci siamo visti qualche giorno dopo, perché lui gli doveva dare una risposta se comprava il mio terreno o no, e mi disse, dice, è troppo rumoroso, ci passano le macchine, è troppo rumoroso. Poi mi fece una domanda, che fine ha fatto quell'albicocco, come sta? E dico, guarda Pier Paolo, mio padre l'ha tagliato. Peccato. Tacque e gli vidi gli occhi rossi, quasi come se stesse per piangere. Ecco, questo è Pasolini, come se stesse per piangere. E non parlò per un bel pezzo, peccato, ripeteva, peccato. Ecco, ma mio padre dovette tagliarlo perché lì poi costruimmo una villetta e quindi la mentalità dell'epoca era quella, insomma, la villa era uno status simbolo e per cui insomma fecero onorati, doveva avere la villa, vabbè, è andata così. La prima volta che lo conobbi fu quando gli telefonai per l'intervista, dunque era il 1961, avevo 22 anni, come ho già detto prima, scusate se mi ripeto, e collaboravo al quotidiano Il Tempo per la pagina della provincia e alla rivista italo-americana ma dell'America Latina, virgola, e si parlò in redazione, la redazione stava a quei tempi all'Eura, si parlò che il numero di quella settimana o di una settimana dopo doveva contenere un'intervista a Pasolini, perché ogni numero c'era un personaggio grosso da intervistare. E tutti si tirarono indietro. E io con la sfacciataggine di un contadino burino dei Castelli Romani dissi, ma ci vado io a intervistare. Oh, signora, grandi risate. Vabbè, io incassai la botta, scesi e vidi sull'elenco telefonico per Paolo Pasolini. Via Giacinto Carini 52 e chi te mi misi con la faccia tosta che non mi è mancata mai, grazie a Dio, mi misi al telefono e mi rispose una voce femminile, io stavo per dire signora, poi mi sono fermato, era lui, una voce femminile, come una donna. Dico, senta, io sono un giornalista, parlo con il professor Pasolini, sì, sono io, certo, ci mettiamo d'accordo per il mercoledì successivo, mi pare che io mi telefoni, noi per mercoledì successivo alle 4. E fu un incontro magnifico, una persona gentilissima, era basso come me, paro, basso come me, più magro di me però, portava una camicia di questo colore con un gilet di lana di colore rosso e abitava a piano terra. Poi mi raccontò col tempo che lui preferiva stare al piano terra, per lui era... doveva stare a contatto con la terra, con la strada, con le persone. E casa era piena di ragazzi, poi si sapeva che lui bazzicava i ragazzi perché aveva quella attrazione. E sedeva su una sedia a dondolo e ogni tanto si muoveva e mi dava pure fastidio perché io questo che si muove, io devo prendere appunti qua. Durante il colloquio gli chiesi, dico, senta professore, quale autore di musica le piace di più? E lui disse Bach. E io stupidamente forse gli chiesi, ma perché? E lui disse, per il suo estremo rigore mentale. Difatti, quando fece a Cattoni il primo film, no? Mentre stava girandolo, una sera venne a cena a casa mia. Lui mangiava pochissimo perché aveva due ulcere, due. Mangiava pochissimo. E quando vide che io mangiavo e bevevo, mi guardava un po' storto e lui si mangiò una mozzarella con l'olio. Poi mio padre gli detto un fiasco di vino, dice, io non lo bevo, dico, vabbè, portatelo a Roma. Insomma, stava girando a Cattone ed era molto teso, dice, sa, vedremo un po'. Quando andai a vedere questo bellissimo film, era quasi tutto commentato dalla musica di Bach, musica che lui riprende nel Vangelo secondo Matteo. E prende specificamente un pezzo dalla Passione secondo Matteo di Bach, la negazione di Pietro. Sempre questo. E soprattutto usa la musica massonica di Mozart per la morte del duca di Mecklenburgo. Non c'è un musicista italiano nei suoi film. Poi ci sono gli spirituals negri, tutto quanto, però lui amava la musica straniera. Ma Per esempio, mi disse che lui aveva preparato la tesi di laurea su Duccio di Buoninsegno Giotto per Longhi, per il grande Longhi. A un certo punto non la trovò più. E allora ripiegò e fece la tesi su Pascoli. Difatti nelle sue opere si sente l'influsso pascoliano, assolutamente si sente. E se voi ci fate caso, in tutti i suoi film, voi vedete i quadri di Duccio di Buoninsegna, gli affreschi di Giotto, vedete il Mantegna, vi ricordate quando muore Erode, che si vede quasi, quasi lungo sul letto, è come il Cristo del Mantegna, nel Decameron, eccetera. C'è questo suo grande gusto per la pittura, e lui pure disegnava, era molto bravo nel disegno e nella pittura. Il suo autoritratto è bellissimo, è particolare, insomma era un ingegno eclettico, c'è poco da fare, era un ingegno eclettico, di cui forse le opere minori sono quelle che gli hanno dato fama, cioè i romanzi di vita forse sono le opere minori, perché lui non era romano, come faceva a parlare questo dialetto? Ha fatto un lavoro di filologia. Ma siccome lo stile è impulso biologico inconscio, e lui lì ha dovuto fare una traduzione, si è servito dei suoi amici per sapere a quali parole corrispondessero. Per cui sono opere che sono infilmate da questo lavoro di filologia, perché non è il suo dialetto. Non è il dialetto spontaneo di Giorgi Nobelle, o quello depurato di Trilussa e di Pascarello, o quello di Carlo Porta milanese, perché era milanese, quegli altri erano romani. Lui ha fatto un lavoro cervellotico sopra. Queste due opere, che insomma sono state criticate immediatamente per questo motivo, sono quelle che gli hanno dato la fama, sono quelle che l'hanno portato in tribunale. Ma vi rendete conto, in tribunale, perché che c'era di scandaloso in quelle opere? Guardate che l'Italia moralistica di quei tempi faceva veramente ridere. Ma la cosa più scandalosa non viene da Pasolini, ma viene dal suo partito. Lui era marxista, era comunista. Quando uscì il Vangelo secondo Matteo, fu attaccato dai comunisti, che gli dissero: ma lì non c'è niente, non c'è nessun pensiero marxista in Cristo, che è un rivoluzionario che ha preceduto Marx. Ma vi rendete conto voi? Vi rendete conto voi? Però col tempo, e lui me lo disse, col tempo stava in forte crisi col partito. Il partito che lo cacciò quando scoprirono che su, dove abitava la madre, in Friuli, lui aveva avuto rapporti o perlomeno simpatia con un ragazzo, lo espulsero dal partito. E lui è rimasto comunque sempre attaccato a questa ideologia. Tant'è vero che talvolta è un limite nei suoi romanzi di vita, quando parla di questo straccio rosso che salverà il mondo, eccetera, è un limite anche quello, ma un limite che lui supera con la sua grande intelligenza. Lo supera. Tant'è vero che nel Vangelo secondo, in Uccellacci Uccellini, è vero che lui rappresenta il corpo e muore, ma è anche l'ideologia che muore. È l'ideologia che muore. Pasolini profeta, di questo si è parlato molto, ma profeta di che? Dice perché ha parlato della morte dell'uscio, no, è profeta perché non ha detto che la rovina dell'umanità sarà la destra o la sinistra, ma la rovina dell'umanità sarà il consumismo, ed è stato il primo a dirlo, ed ha avuto pienamente ragione. Il consumismo, il quale porta delle conseguenze nefaste su tutti i piani, anche sul piano ecologico, sul piano dello spreco, dell'uso e getto, dell'immondizia, della svalutazione dell'amore che gli esseri devono portare per le cose. Cioè l'uomo si ridimensiona fino a diventare lui una cosa, fino a diventare lo schiavo di una cosa che è la macchina. E guardate che queste sono cose che si leggono in scritti corsari. e si leggono in altre opere di Pasolino, non è che le sto inventando io. Ora, mentre parlo, mi viene in mente una cosa molto particolare, un ricordo molto particolare al quale sono legatissimo. Dunque, io ero tanto amico, ma proprio tanto, di Carlo Levi. Mi onoro che la prima opera, la prefazione me l'ha fatta lui insieme con Corpicelli. Allora, avevo appuntamento con Carlo Levi a casa sua alle 10. Lui abitava a Piazzale Flaminio, però all'interno, a via Ruffolo, in mezzo a una specie di bosco all'interno di Roma, sembrava, e non aveva una casa bellissima, eccetera. Allora, e lo vidi che maneggiava con la sua vecchia 1100 e mi disse: non parte. Dico: ah, non ti preoccupare, maestro. Cioè, no, devo andare al Verano perché c'è il funerale di Verso Muggi. Verso Muggi era un poeta minore che lavorava a Paese Sera. Cioè, disse: io vabbè, ti accompagno io, che problema c'è, ho la macchina qua. Andiamo. E andammo a spaccare tutta Roma per arrivare al Verano. Ormai il funerale era finito e stavano tutti quanti ritornando. Mi ricordo che da una parte c'era De Chirico, così come un bue, e Levi dice: ciao Giorgio, e lui: no, ciao, così. Cioè, vabbè, a un certo momento incontrammo Pasolini, con la camicia bianca, sembrava un calabrese, vestito di nero con la camicia bianca e la cravatta nera, proprio un calabrese, proprio, no? Magro, era reduce dai successi in Francia quando hanno proiettato a Notre Dame de Parigi il Vangelo secondo Matteo, era reduce di qui, e ci abbracciamo, anche lei si mise a parlare con lui, eccetera. Insomma, a un certo momento mi sembra che venne Rosi, il regista Rosi, mi sembra, non ci giurerei, però ho buon motivo di pensare che fosse lui. E mentre io parlavo con Pasolini di questo film, insomma, poi di altre cose, parlavamo di tante cose, questo regista si avvicinò a Carlo Levi e disse: ma quando lo facciamo Il Cristo si è fermato a Empoli? Quando mi dai il permesso di filmarlo? E Levi dice: no, ci devo ancora pensare, no, insomma, parlavo, poi tornammo in macchina. E io gli dissi: maestro, ma perché gli hai detto di no? Caro motivo. Cioè, guarda, Aldo, il cinema è un linguaggio a sé. Non può riprodurre la poesia che contiene Il mio Cristo si è fermato a Empoli, perché non c'è una struttura filmica. Dico: che intendi per struttura filmica? Intendo una trama, dei personaggi. Cioè, lì si legge sulla poesia della mia narrazione, non potrà essere messa in film. Allora gli dissi: ma allora perché non lo dai con tutti quei personaggi arcaici che descrivi? Perché non lo dai a Pasolini, che lui ha visto proprio questi personaggi, li ama, eccetera? Lui non mi rispose. Lo accompagnai al Senato, ma lui non mi rispose. Non insistenti, però non mi rispose. E questo è un nodo che non sono riuscito mai a sciogliere. Mai. Poi, dopo morto, mi pare che Rosi abbia fatto il film con Gian Maria Volonté di Il Cristo si è fermato a Empoli, ma insomma, tra il capolavoro altissimo del libro e il film, c'è di mezzo l'oceano, non l'Atlantico, ma c'è di mezzo il Pacifico, ecco questo. Ma non mi rispose, mentre noi parlavamo spesso di Pasolini, anzi lui mi disse una volta che da principio Pasolini era impetuoso, poi aveva capito, era diventato, era avvincito quando si facevano dei dibattiti, eccetera. Non mi rispose. Perché non mi rispose? Questa è una cosa che mi è rimasta dentro e non gliel'ho chiesto più, non ho avuto più il coraggio di chiedere. Un altro ricordo di Pasolini rappresenta proprio questa sua vocazione religiosa. Io gli chiesi una volta, dico: senti, tu parli dell'agricoltore, non so, così come ne ha parlato Virgilio, che non ha mai preso una zappa in mano. Io dissi: chiaro e tondo. E lui mi rispose: guarda che c'è tanto cristianesimo nell'agricoltura. cristianesimo nell'agricoltura. Non ebbi il coraggio di chiedergli cosa volesse dire, cosa significasse questo. Non ebbi il coraggio. Però poi si parlò della religione del potere. E io, come un imbecille, naturalmente, che avevo 26-27 anni a quei tempi, come un imbecille gli dissi, però quella frase di Gesù, data a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio, è un po' ambigua. Lui mi disse, no, sta attento. Dice, mi fa specie che tu sei laureato in lettere e non hai capito che quella E non è una E congiuntiva, ma è una E disgiuntiva. Il che significa che a Cesare non deve essere dato niente, perché tutto è di Dio. Porca miseria, noi dissimo, questo ha letto il Vangelo molto meglio di parecchi preti. Questo ha letto il Vangelo molto meglio di parecchi preti. Un giorno stavamo a pranzo con Moravia, Tacia Maraini e altri eccetera, e uno, un giornalista che stava vicino a me, disse, certo Pasolini è cattolico. Tacia Maraini disse, no, fermo, Pasolini è cristiano, non cattolico. È cristiano, non cattolico. Mi raccontò Pasolini, e con questo chiudo perché veramente qua si fa tardi, mi raccontò Pasolini un giorno, che poi mi pare di averlo letto, che l'ha scritto pure su qualche cosa. Un giorno mi raccontò che da ragazzo lui si immaginava di essere messo in croce come Gesù. E molti hanno visto una identificazione nel dolore, però non nella grandezza, perché Cristo è un unicum nella storia, un mistero. Si creda o no alla divinità o altro, è un mistero nella storia. Napoleone diceva, io riconosco gli uomini, Cristo è qualcosa di più di un uomo. Allora, questa identificazione nel dolore ha fatto sì che il film fosse così potente nella realizzazione della visione di Gesù. Qualcuno ha detto, ma sembra un Che Guevara, ma non hanno capito niente. Non hanno capito niente. Perché lì c'è il Cristo rivoluzionario che gran parte della Chiesa ha voluto smorzare. Ultimamente, proprio ultimamente, in questi giorni, nelle mie insonnie, perché purtroppo, anche se prendo i sonnifoni, non dormo, io stanotte l'ho passata completamente in bianco. Purtroppo è una cosa che ho preso da mia madre, non ho mai dormito, quindi non dormo nemmeno io. Madre certa, padre incerto. Mia madre era insonne, ho preso le mie mani, c'è poco da fare. Nelle mie notti insonni, appunto, ho perso il filo del discorso. Che stavo dicendo? Scusate, che stavo dicendo? Ecco, il Cristo rivoluzionario, dice, c'è un Che Guevara. Ma la rivoluzione che ha fatto Cristo è fondamentale nella storia ed è la più grande, prima di tutto perché è una rivoluzione senza spargimenti di sangue. E secondo perché il rivoluzionario si è fatto uccidere, non ha ammazzato gli altri. E terzo perché è un capovolgimento delle visioni del mondo, della visione del mondo, è un capovolgimento. Io sere fa, ecco, riagganciando, notti fa, rileggevo il grande inquisitore dai fratelli Karamazov e di Dostoevsky. Il grande inquisitore che vede tornare Cristo nel 1500, no? Gli dice, guarda, io ti ho riconosciuto. E Cristo non parla. Dice, tu hai voluto dare la libertà all'uomo, ma l'hai rovinato. Noi che abbiamo capito quello che l'uomo vuole, questa libertà gliel'abbiamo tolta. Perché l'uomo vuole l'autorità, il miracolo e il mistero, non vuole la libertà. Sta attento che se tu torni, dobbiamo rimetterti in croce un'altra volta. E questo lo dice il grande inquisitore. Sa, uno dei padri, degli ultimi padri della Chiesa è stato definito Dostoevskij. Io non voglio adesso attaccare assolutamente la visione della Chiesa su Cristo che l'ha imbalsamato, non voglio attaccarla. Però quando parlavo con Pasolini mi diceva proprio questo, che la Chiesa aveva imbalsamato Gesù e lui aveva cercato di ridargli quella forza, quella energia che come dice Gandhi, il quale non era un cristiano, non era un cattolico, come dice Gandhi, di Gandhi, Cristo è la più grande fonte di energia spirituale della storia. Grazie. Qualche osservazione, qualche curiosità, sicuramente il professore saprà soddisfarle. Fabrizio, mi apri questo così chiedo. Qualcuno vuole intervenire? Le inviti tutti. Vuole parlarci della ricotta? A proposito della crocifissione di Gesù, io ho in mente il film La ricotta, dove tra l'altro la passione pittorica di Pasolini raggiunge l'apoteosi. Forse ci vuole raccontare qualcosa per completare un po' questa visione di Cristo. Bianco e nero, il Vangelo secondo Matteo, e esplosione di colori, La ricotta, almeno in parte, se ricordo bene. Allora rispondo con le parole di Pasolini. Quando gli dissi: ma perché pensi che la ricotta sia stata sequestrata? Lui mi rispose: per la miopia degli animi. Parole testuali, non ho testimonianze, però me lo ricordo. Per la miopia degli animi. Non hanno capito quanto io ami Cristo. Questa è la risposta di Pasolini, alla quale non posso aggiungere nulla. Non c'è niente di offensivo, niente di parodistico in quel film. C'è la tragedia in quel film. C'è la morte, non c'è la resurrezione. Sapete che nel Vangelo secondo Matteo Pasolini non voleva mettere la resurrezione. Furono i frati della cittadella di Assisi che dissero: no, se hai messo Vangelo secondo Matteo, cioè la resurrezione, devi rispettarla. Ma lui non la voleva mettere, non credeva che fosse risorto. Però l'ha aggiunta per fedeltà al testo che aveva trascritto e portato nel linguaggio filmico. Ecco. Per il popolo e magari anche la sua voglia di immortalare, no? Ad esempio in quelle trasmissioni televisive, quello che era il livello culturale, la cultura popolare. Vuole raccontarci qualcosa di questo? Io non ho mai creduto fino in fondo all'amore di Pasolini per il popolo. Voi mi direte: che adesso che fai? Ti rimangi tutto quello che hai detto? No, io ho detto le cose alle quali ho creduto. Ma l'amore di Pasolini per il popolo non mi ha mai convinto. Lui frequentava i ragazzi perché gli piacevano, ma è rimasto sempre un po' distaccato dalla sua altezza. Una volta mi disse: noi siamo i numero uno della società. Dai, uno che ama il popolo non dice: noi siamo i numero uno della società. Lui lo sapeva di essere il numero uno, lo sapeva. Sa la parola amare il popolo, pure Stalin diceva che amava il popolo, e Mao pure, una ammassata di gente. Pasolini non l'ha fatto, ma non amava il popolo. Pasolini era un borghese. Amava però la cultura del popolo. Guardate che sto dicendo delle cose ben precise. amava la cultura del popolo. Ecco perché lui si rifà sempre alle origini ancestrali della purezza contadina, perché amava la cultura del popolo, amava il dialetto, i dialetti. Se voi leggete l'antologia che ha scritto insieme con Mario Dall'Arco sui poeti dialettali d'Italia e leggete le sue opere in dialetto friulano, vi accorgete che, gli stessi romanzi di vita, vi accorgete del suo amore primigenio, che viene prima della lingua, perché il dialetto viene prima della lingua. Il dialetto viene prima della lingua. Quando le persone si arrabbiano e bisticciano, parlano in dialetto, non parlano in italiano puro, in italiano petrarchesco, non dantesco, perché Dante quando si arrabbia, in Dante ci sta la trivialità e il sublime. Poi è stato servito Petrarca, perché in Petrarca c'è solo la purezza della lingua. La lingua madre è il dialetto. La superlingua è quella che noi impariamo piano piano a scuola. Pasolini amava il dialetto perché amava le origini, perché amava la cultura del popolo, ma non il popolo. Lui è stato sempre un po' distante. Non mischiamo essere omosessuale che cercava i ragazzi, li pagava, eccetera. Non mischiamo questo con l'amore del popolo. Veramente io non saprei nemmeno dirvi quali dei nostri autori amasse il popolo. Non so chi lo amava. Verga, che ha parlato del popolo disgraziato dei vinti, ma Verga era un signore, era un ricco, c'aveva un appartamento che non finiva mai, io l'ho visto vinto su tre piani, era distaccato dal popolo, parlava del popolo ma non era del popolo. Regrediva. Io non so quale autore amasse il popolo, non lo so veramente. Non so nemmeno se il popolo lo amasse Gramsci, non lo so. Quindi, ecco, questa è la mia risposta. E se si tira in ballo la morte di Pasolini, guardate che ci sono aperti ancora molti dubbi. Si va dal dubbio di Solange del Pressier, professoressa alla Sorbona, per mio grande onore, traduttrice anche delle mie opere in Francia, la quale mi disse se l'è ben cercata. Si va alla testimonianza di Walter Mauro, il quale dice, racconta di quando andarono in India e l'uomo che stava dentro l'albergo al di qua disse, mi raccomando, c'era anche Moravia, c'era stava il Samurante, eccetera, mi raccomando non andate in quel posto perché vi ammazzano. E lui perse le staffe nel suo delirio sessuale e ci andò, ci passano notte, lo racconta anche. Se voi leggete Un marxista in America di Oriana Fallaci dice che lui la sera, dopo che aveva cenato e mangiava pochissimo, mangiava soltanto l'insalata e beveva il latte perché aveva due ulcere, difatti era magrissimo, scheletrico, andava in posto, dice, dove nemmeno la polizia ci va, e la mattina torna con gli occhi gonfi. Un giorno io andai a casa sua e lo trovai tutto incerottato, impicettato, perché l'avevano caricato di botte la notte. Questa dualità, e bisogna tenerla presente, questa dualità, che non è amore del popolo. Poi ci sono quelli che hanno detto che l'hanno ammazzato i fascisti, a quei tempi qualunque cosa succedeva erano i fascisti. Poi ci sono altri che dimostrano che c'erano altre persone con Pelosetto, con Pelosini, con Pelosi, c'erano altre persone. Rimane un mistero, noi non lo sappiamo. Però questo non dice che lui sia andato in croce come Cristo. Perché qualcuno vuole raffigurarlo in questo? No, andiamoci piano. Non mischiamo l'oro con il faro, per carità. Non facciamo di Pasolini l'eroe dell'amore che sale in croce. Lì quella sera non si sa come sono andate le cose, però lui è andato con un ragazzo lontano per fare l'amore, un amore omosessuale. Per carità, va tutto bene, che mi frega, mi sono fagioli. Però identificare lui con il crocifisso, come qualcuno ha voluto fare, mi sembra un po' eccessivo. mi sembra un po' eccessivo. Senso, visto che lei l'ha conosciuto personalmente. Sì, sì, eravamo amici, amici appunto, com'erano i rapporti di Pasolini, se c'erano delle differenze con gli amici uomini e le amiche donne, se c'è qualche cosa di, che ci può raccontare, insomma, una dimensione che ancora magari non conosciamo. Vede, quando fece il film con Maria Callas, no? Tutti quanti cominciarono a parlare di un amore di Pasolini con Maria Callas. La Oriana Fallaci scrive che, anche sapendo che Pasolini era una donna, lei veniva attratta da questo personaggio, era attratta anche sapendo che era una donna. È chiaro che, essendo omosessuale, lui amava gli uomini, però bisogna in questo fare una distinzione, che Pasolini sul piano umano metteva sullo stessa posizione, sullo stesso orizzonte, sia la donna che l'uomo. E questo è un grande passo avanti, eh? Metteva sullo stesso orizzonte sia la donna che l'uomo. E nei suoi rapporti con gli uomini, lui si guardava bene dal fare proposte a persone che non fossero di un ceto molto basso. Cioè, non ha fatto mai proposte a un giornalista, a un amico, a un intellettuale, per carità, faceva delle distinzioni ben precise. Ora ciò non toglie che i suoi amanti poi li ha fatti diventare, alcuni li ha fatti diventare famosissimi, come Ninetto Dauli e altri. Non toglie questo. Però non faceva distinzione di grandezza tra uomo e donna, tant'è vero che una delle collaboratrici delle colonne sonore dei suoi film è stata l'autrice dell'Isola di Arturo, Elsa Morante. Ecco, queste sono cose molto importanti da dirsi. Certo, rimane il punto misterioso del grande amore che lui ha avuto per la madre, e in una poesia lo dice, cioè, tu sei la stella fissa e gli altri passano, cioè, però il tuo amore mi ha condizionato, questo odio profondo per il padre. Ma qui non si tratta di vedere nella madre una donna e nel padre un uomo, qua sono questioni che devono risolvere gli psicanalisti, io non sono uno psicanalista, però questa è la realtà. Lui apprezzava l'intelligenza delle donne, come no? Aveva come collaboratrici anche delle donne, e questo mi sembra molto importante. Allora penso che possiamo salutarci. Vuoi dire qualcosa tu? Il nostro Presidente Emerito, intanto siamo prontissimi per le proiezioni dopo queste splendide spiegazioni, domani sera alle 17 il Vangelo secondo Matteo e lunedì Medea alle 17 sempre qui. Il nostro Presidente Emerito. Io in questa serata io vorrei essere un amico di Aldo, perché ci ha fatto un regalo grandioso. La domanda che vorrei fare la vorrei fare più al pubblico, per chiedere se non valeva la pena che venisse Aldo Onorati da noi. E credo che la risposta sia anche scontata. Erano 3 anni che lo aspettavamo, ma era già venuto 2 o 3 volte prima, però a causa della pandemia non era possibile. Però ci ha portato un qualcosa che credo ci ha fatto un enorme regalo. Credo che se Pasolini fosse qui o ci sentisse sarebbe contento che abbiamo parlato di lui. Io mi ricordo fino a volte i centenari sono utili, a volte sono sciocchezze, sembrano cose così di mera ripetizione, per far parlare gli oratori, per fare conferenze, Ma nel caso dei Pasolini credo che sia una riscoperta interessantissima, perché fino a poco fa di Pasolini dicevano stategli alla larga, cioè almeno qui ho questa sensazione, è un personaggio talmente pazzo, talmente folle, talmente ridicolo, talmente controverso che insomma era meglio non conoscerlo. Però noi stasera abbiamo qua uno che l'ha conosciuto, non solo conosciuto, ma ha passato tempo insieme con lui, gli è stato amico, eccetera. E abbiamo capito che Pasolini non è inquadrabile in una categoria ben definita. Forse questo vi dà fastidio, che noi vorremmo che gli uomini fossero di destra, di sinistra, cristiani, non cristiani, credenti, non credenti. Pasolini era nulla di questo, e lo diceva forse anche lui, ma era anche tutto questo, almeno io ho capito questo. E questo ci sconvolge, ci lascia abbastanza... Ecco, io voglio solo ringraziare Aldo, lo chiamo Aldo perché noi ci sentiamo spesso e ogni volta è come sentire una delle sue conferenze, anche parlare solo un attimo con lui. Lui che ci riporta nei cenacoli romani, negli incontri con i grandi con cui vive e convive spesso, insomma, credo che ci sia di enorme piacere e aiuto. Pensare che lui è partito dai Colli Romani stamattina per essere qui con noi, ha sopportato il caldo, perché uno dice il problema è il caldo, che da ultimo quel nostro situazione climatica fa fastidio a tutti, ha sopportato il ritardo del treno e è arrivato di corsa qui senza neanche riposarsi, eccetera. Io lo ringrazio tantissimo, come ringrazio tutto il pubblico. E lui è abituato a parlare a folle incredibili, anzi il suo problema è come tenere fermi chi lo chiama, perché lui me lo dice, insomma, che lui potrebbe fare anche 5 conferenze al giorno, e so che insomma qui c'è la sua nipote che ringrazio anche per la sua presenza, e, però il fatto che è venuto a Bolzano credo che sia un grandioso regalo. Ecco, ringrazio anche la Paola Mazzini che non è stata citata, ma se siamo qui anche merito suo che ha organizzato questa serata e anche le prossime due sui film di Pasolini, e ci rivediamo per i prossimi giorni, insomma. Voglio solo dire una cosa, il giorno 21 avremo un altro personaggio molto interessante, il professor Pae e Matteo Santipolo, e lui è uno che sostiene che anche i dialetti sono lingue, ecco, perché, e lui dice che l'imparare o il seguire un certo modo di parlare, di imparare la lingua e quant'altro, o in seguire un altro, non è la stessa cosa. Noi a Bolzano a volte ci diamo arie perché abbiamo la lingua standard, non abbiamo il dialetto, eccetera, ma non so se è una povertà o se è una ricchezza. Ecco, il 21 parleremo di questo con questo grande linguista di livello internazionale. Aldo, grazie, un minchino, e penso che gli applausi sarebbero infiniti. Ciao.